Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 8 novembre, benvenuti di nuovo a tutti i nostri ascoltatori su Liberi Dentro e Radio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città e che va sempre in onda su Radio Città Fujiko, Tele Tricolore e Lepida TV. E do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, la mia collega preferita, sempre qui con me in redazione Eduradio. Ciao Antonella. Ciao Caterina, un caro saluto a tutti, buondì. Oggi Antonella parliamo del mio argomento preferito, ormai è diventato, ed è quello universitario, degli studi universitari in carcere. Intanto leggo una notizia sull'ANSA, l'agenzia di informazione. Carceri, durante la pandemia, 29 detenuti laureati su 1.034 iscritti. Perché secondo un monitoraggio della Conferenza Nazionale Universitaria Polipenitenziari, la cosiddetta CNUPP, per quanto riguarda i laureati all'interno delle carceri, quest'anno sono stati in tutto 29. 23 hanno concluso un corso triennale, 6 un corso magistrale o un ciclo unico. E ovviamente sono i corsi triennali più gettonati, anche perché è più facile conseguire la laurea in tempi brevi, anche magari in vista di un trasferimento, ecco. E li ha scelti l'87% degli iscritti, pensate, mentre il 13% ha preferito corsi più lunghi, magari anche corsi post laurea. E poi c'è una notizia direttamente collegata a questo, agli studi universitari in carcere, perché ci porta in Sardegna, dove vengono inaugurate le prime aule informatizzate per detenuti studenti universitari. Ed è in particolare dagli istituti di Alghero, Nuoro, Sassari e Tempio di Pausania dove sono state allestite le prime 5 aule, frutto di una collaborazione tra il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria Centrale, che è a Roma, e il Provveditorato Regionale per la Sardegna e ovviamente la CNUPP dei poli universitari. Caterina, che bello avere delle aule informatizzate, veramente meraviglioso. Ma chi ha proposto e finanziato il progetto? È stato proposto dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria DAP, che ha anche finanziato il cablaggio delle aule didattiche universitarie nell'ambito, questo, di un progetto più ampio, anche di carattere nazionale. E quindi una volta approntata l'architettura informatica da parte del DAP, che ha anche provveduto ad acquistare gli arredi delle aule, mentre l'università ha acquistato l'hardware e i software, grazie al finanziamento del MIUR, ecco il progetto potrà partire in maniera sperimentale proprio in Sardegna. Senti, per andare sul concreto, che cosa cambia per gli studenti e quali sono i vantaggi? Allora, questa è una cosa bellissima perché ogni studente avrà un'identità telematica riconosciuta dal sistema che gli consentirà di accedere mediante una username e una password e una volta all'interno potrà andare anche a consultare la sua carriera universitaria, iscriversi agli esami, parlare con i propri docenti senza dover sempre fare da intermediario con magari volontari o la famiglia che scrive ai docenti universitari e potrà archiviare e consultare i materiali di studio. Quindi sono delle novità fantastiche perché tutto questo al momento non è concesso all'interno degli istituti di pena. Caterina, questa è una grande novità che mi auguro venga estesa anche a livello nazionale. Non mi dire di no. Eh sì, infatti il sistema realizzato è già pronto per essere modulato a livello nazionale, come dici bene. Una volta che questa sperimentazione in Sardegna avrà dato i primi esiti positivi, sarà esteso a tutta la rete dei poli universitari penitenziari afferenti alla CNUP. Nella casa di reclusione di Alghero si è svolta quindi la presentazione del sistema con la cerimonia di inaugurazione e il dottor Massimo Parisi, che è il direttore generale delle risorse del DAP, ha detto che il valore aggiunto di questo progetto sta proprio nella interazione tra le diverse istituzioni. E anche nel fatto che è una sperimentazione che vuole proprio insistere poi per diventare un modello nazionale. E lo stesso provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, ha detto che si tratta di un progetto di avanguardia che pone la Sardegna come capofila nazionale nell'innovazione tecnologica. Quindi sarà un salto infrastrutturale e culturale molto importante. È un obiettivo virtuoso che dovrebbe diventare la norma e noi ci auguriamo che sia veramente così. Questa settimana, Antonella, e per chi ci sta ascoltando, abbiamo sempre Bob Dylan che ci accompagnerà e ho scelto per voi Just Like a Woman, che è una ballata country rock scritta negli anni 60, è un modo anche per conoscerlo. Lui è un cantautore e poeta che qualche anno fa, proprio nel 2016, si è aggiudicato il premio Nobel per la letteratura, nonostante sia un cantante, ma scoprirete quel perché ha scritto dei testi che sono quasi delle poesie. E quindi ascoltatevi questa canzone e ci rivediamo tra pochissimo con le notizie culturali con Antonella. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman, but you break just like a little girl. E rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro, Du Radio TV. Antonella, ripartiamo con le notizie di carattere culturale, anzi questa volta scientifico. I 6 esercizi fondamentali della ginnastica mentale. È proprio così, Caterina. Ho letto un articolo di Caroline Williams sul New Scientist, un giornale del Regno Unito, che giustamente dice: se escludiamo gli animali filtratori, gli esseri umani sono le uniche creature che possono sopravvivere stando sedute tutto il giorno. D'altra parte io e te lo sappiamo bene, ahimè. Come specie, infatti, abbiamo avuto un discreto successo nel trovare modi di alimentarci e di intrattenerci, e perfino addirittura di avere un partner senza praticamente muoversi dalla sedia e muovere un dito. È una prova di quanto siamo versatili e intelligenti, questo è vero. Tuttavia, la sedentarietà ha un costo enorme, non solo sui nostri corpi, ma anche sulle nostre menti. Infatti, la diminuzione del quoziente intellettivo e l'aumento dei disturbi mentali sono stati collegati alla mancanza di movimento fisico. Questa è una notizia sensazionale, anzi ti chiedo di approfondire meglio, siccome anche noi siamo sedute tutto il giorno a raccontare notizie, raccontaci. Allora, il legame tra movimento e cervello è più profondo di quanto potremmo pensare. Un nuovo e rivoluzionario approccio a questa relazione ha rivelato che pensieri ed emozioni non avvengono solo nelle nostre teste e che il modo in cui ci muoviamo influenza profondamente i nostri processi mentali. Si apre la possibilità di usare i nostri corpi come strumenti per cambiare i nostri modi di pensare e sentire, e questa è una bella novità. Il punto non è semplicemente però fare più esercizio. Non importa cosa volete dalla vostra mente, se più creatività, più elasticità o più autostima. I risultati di alcuni studi mostrano che esiste un modo di muovere il corpo che può servire a ottenerla. Ma andiamo più nel dettaglio. Quali sono questi 6 esercizi per migliorare in poco tempo, diciamo, la qualità della nostra vita? Caterina, io comincio con i primi, perché poi mercoledì continueremo con i successivi. Allora, prima di tutto, alzatevi in piedi. Non è una novità che camminare e correre aiuti a schiarirsi le idee, ma le ricerche in questo campo suggeriscono che a diverse velocità corrispondono diversi benefici mentali. Correndo o camminando a un ritmo facile da sostenere, la mente è libera di vagare, perché si riduce l'attività nelle regioni prefrontali del cervello. Queste aree favoriscono i pensieri razionali e lineari. Alcuni studi suggeriscono che ridurre la loro attività permette il fluire delle idee più ampie e più creative. È anche interessante il fatto che fare una leggera pressione sui piedi quando si cammina lentamente ha effetti sul flusso sanguigno che arriva al cervello. Pensate, dai piedi al cervello. E se si aumenta il ritmo della camminata fino a quello della marcia, le cose diventano ancora più interessanti, perché negli esperimenti il principale aumento del flusso sanguigno coincide con il momento in cui i battiti del cuore e il ritmo dei passi si sincronizzano, 120 battiti e 120 passi al minuto, il che sembra suggerire l'esistenza di uno sweet spot, cioè un punto magico. Non è chiaro, che effetti abbia questo afflusso supplementare di sangue al cervello, ma sappiamo che l'esercizio in generale aumenta la materia grigia nell'ippocampo, che è fondamentale per la memoria e la consapevolezza spaziale. Dette così sembrano cose molto semplici, ma c'è un ma oppure continuiamo con la semplicità? Continuiamo abbastanza con la semplicità, perché un'altra delle dei consigli è un altro consiglio: rafforzatevi. Ogni generazione, pensa Caterina, è più debole della precedente. Uno studio del 2019 ha dimostrato che nel 2014 i bambini di 10 anni in Inghilterra erano del 20% più deboli e avevano il 30% in meno di resistenza muscolare rispetto a quelli che avevano 10 anni nel 1998. La colpa è quasi sicuramente dello stile di vita sedentario, che ha conseguenze sulla salute mentale e fisica. Infatti, le persone di mezz'età che sono più forti hanno più materia grigia e una memoria migliore 10 anni dopo. Una delle spiegazioni potrebbe essere un ormone chiamato osteocalcina, sprigionata dalle ossa quando ci muoviamo contro la forza di gravità in qualsiasi tipo di esercizio che prevede il sollevamento di pesi. Negli studi effettuati sui roditori, per esempio, è stato individuato un legame tra il rilascio di questa sostanza e la connettività dell'ippocampo. Gli studi sugli esseri umani sono ancora in corso, ma sembra che una mancanza di osteocalcina possa essere legata al declino cognitivo e all'insorgere di malattie neurodegenerative. Insomma, il rafforzamento fisico sta diventando una potente arma contro depressione e ansia, anche quando non rientra in un programma più ampio di allenamento. Guarda che per rafforzarsi non è necessario per forza andare in palestra o comprarsi dei pesi, basta usare il peso del proprio corpo, la gravità ci aiuta tantissimo. Un esempio banale: trascorrere più tempo seduti sul pavimento è un buon metodo per irrobustire i muscoli delle gambe, anche perché se sei scomodo poi alla fine ti devi alzare. E gambe forti rafforzano l'equilibrio e la coordinazione, due aspetti che risentono negativamente dei nostri stili di vita sedentari. Però a questo punto mi fermo e continuiamo mercoledì per questa ginnastica mentale. E per rimanere nel movimento, ascoltiamoci Beautiful Tango di Hindi Zahara. A voi. Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the Come to the world, come to the world, and baby, let me. me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Buongiorno a tutti. Allora, la scorsa settimana insieme a Carolina Sifontes abbiamo introdotto la figura del mediatore all'interno del carcere di Bologna, parlando di cosa abbia spinto Carolina a intraprendere questa delicata professione. Ebbene, oggi continueremo questo discorso affrontando nello specifico il rapporto che si instaura tra mediatore e persona detenuta e in che modo dunque può avvenire un contatto tra loro e quali sono le attività del mediatore all'interno del carcere. E adesso ti chiedo invece, Carolina, in che modo le persone detenute possono richiedere un colloquio con i mediatori all'interno del carcere? E inoltre ti chiedo anche, essendo in proporzione poi molto di più le persone detenute rispetto ai mediatori, su quali base viene data la precedenza a una persona reclusa piuttosto che a un'altra? Ok, allora lì effettivamente c'è una procedura già determinata dal carcere e in accordo con lo sportello sull'accesso a questo servizio, no? E all'interno del carcere c'è un documento, un piccolo documento che è un piccolo modulo che viene chiamato domandina. Quindi quando la persona arriva in carcere le viene detto che può fare la domandina al servizio di mediazione interculturale, ad esempio a tutte le persone straniere, ok? Per cui, e questa è una modalità, cioè il mediatore va a vedere l'archivio appunto al quale noi abbiamo accesso per capire quali sono le persone che sono ingressate nel carcere giorno per giorno, cioè okay. C'è un diario, andiamo a vedere chi entra e si fa una lista. Queste che sono i nuovi giunti vanno visti per ordine d'ingresso. Quindi si suppone che vanno visti le persone che man mano arrivano, no? E questa è una scaletta. Poi e questi sono i nuovi giunti. Una volta che queste persone sono state viste, se hanno ulteriore bisogno di altri colloqui, fanno la domandina. Poi all'interno della giornata c'è uno spazio che viene lasciato libero per le emergenze. Le richieste di ultima ora, dobbiamo capire che le persone detenute sono veramente in uno stato di fragilità, no? È uno shock essere inserito in carcere, soprattutto per i nuovi giunti, per cui molte persone non riescono ad attendere i tempi necessari, entrano in ansia e subentrano altre problematiche, per cui sia gli agenti, gli educatori del carcere, l'area sanitaria può individuare anche una persona un pochettino più fragile delle altre e chiedere un intervento subito, immediato, d'emergenza. Okay. Ci sono tutti i protocolli di prevenzione degli atti suicidari in carcere, che è una cosa molto importante, e su questa cosa vanno visti i detenuti. Quindi è un misto di lista, diciamo, determinato dalla data d'ingresso a quello che il carcere invece ci richiede d'accordo alla circostanza della persona. E così vanno visti, cioè noi agiamo anche nell'immediato, cioè okay. Può arrivare la persona e dire ho bisogno che lei vada al piano, il mediatore va, si alza, la mediatrice va, si alza e va. C'è uno spazio per questo, capito? Perché è necessario all'interno del carcere, chiarissimo, è una situazione complessa, sì. E adesso una breve pausa per un piccolo intervallo musicale. E dopo un breve stacco musicale siamo di nuovo qui in compagnia di Carolina Cifontes. Continuiamo la nostra intervista. Ci puoi dire quali sono le principali richieste che vi fanno le persone detenute? Quali sono i bisogni più comuni che vi domandano in fase di colloquio? Vabbè, cioè, innanzitutto la comunicazione con le famiglie, no? La maggior parte del tempo del mediatore è fare sì che il detenuto possa comunicare con la famiglia. C'è una procedura anche qua stabilita già dalla legge per il quale ogni persona ha diritto a comunicare con i familiari all'esterno, per cui la prima cosa che loro chiedono è: per piacere chiami, no, mia madre, e aiutare soprattutto appunto ai detenuti stranieri a fare la procedura, quella burocratica, diciamo, per poter avere accesso al permesso alle telefonate. E quindi, per cui la prima domanda è questa, e ovviamente anche questi messaggi un po' con i familiari, di quello che loro non possono fare nell'immediato: voglio sapere se mia moglie sta bene, voglio sapere se mio figlio sta bene, dile alla mia mamma che sto bene, eccetera eccetera. Tutte queste chiamate la maggior parte sono fatte all'estero, per cui i mediatori, una volta che parlano con il detenuto, che esprime e fa un consenso, fra l'altro, dove dice sì, io voglio comunicare con mia madre, con mio padre, eccetera, e chiama la persona, gli chiede di mandare una documentazione al nostro ufficio, documentazione che va tradotta. Nel frattempo lo stesso detenuto fa per il carcere una richiesta di permesso per poter colloquiare e vedere la persona. Allo stesso tempo il mediatore traduce i documenti, li dà alla persona e poi si avvia tutto il processo. Quindi questa è la prima richiesta, riguarda tutta la sfera familiare. E a volte sono richieste di salute, ma in realtà quando i detenuti vanno, soprattutto nel tempo del Covid, fanno un passaggio prima per l'infermeria, per cui l'area sanitaria li vede già, però ogni tanto possono essere richieste di saluti, insomma. Certo. E in un secondo momento invece possono già richiedere più sulla situazione del lavoro, dei corsi, delle possibilità che il carcere può dare di tempo libero, eccetera. Allora, anche per, ad esempio, come faccio per farmi arrivare dei pacchi, come faccio per comprare, come faccio per farmi arrivare dei soldi, no? Ci sono diversi modi ai quali i detenuti possono accedere ai loro soldi o i familiari possono inviarle dei soldi perché dentro servono un po', no? Ovviamente. Esatto. E queste sono le richieste per le quali ci si attiva prima, diciamo, in un primo colloquio con dei nuovi giunti. Ok. Sì, sì. Per oggi con Carolina è tutto, ci rincontriamo la prossima volta per un'altra intervista, sempre a parlare del lavoro e della funzione dei mediatori all'interno del carcere di Bologna. E siamo giunti al momento anche oggi dei saluti finali, ma non scordatevi le nostre rubriche a seguire. Ci sarà Sogni dietro le sbarre, che è un documentario a firma e a cura di Paolo Aleotti, che ormai collabora con noi da tempo per le nostre rubriche e i nostri buongiorni, e il documentario libero Comunità, la collina di Cagliari. E ovviamente non scordatevi di scriverci, redazione liberidentro@gmail.com. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese e ovviamente dal nostro montaggista di redazione Enea Flacco. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.